Chi diavolo sei tu? Mi chiamo Ash. Reparto ferramenta. Fuoco alle polveri. Go how Paul Berry Radio Bomba. This is Radio Bomba. Oh, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Eccoci qua. E siamo alla 48esima puntata di Fuoco alle Polveri. Come? Siamo tornati. Davvero, siamo tornati dopo un sacco di tempo, sì. E sa cosa sta succedendo. E dopo, sì, quando è che ci eravamo fermati? Ci siamo fermati prima di Natale, esatto, sì. Abbiamo fatto un po' di vacanzine. Sì. Buon anno, buon anno, buon anno, questo buon anno è importante, assolutamente molto importante. E 48 soltante. Si diceva, soltanto 48, soltantine. Ora, il compito di dire 48 come bla bla bla è sempre stato e sempre sarà del nostro amico Tuco che però è malamente in ritardo perché sappiamo tutti. Il traffico. Sì, probabilmente quello. Grande problema. I lavori alla tranvia. La tranvia, queste cose qua. Una città in subbuglio. E quindi 48 come? 48 come non lo sappiamo. C'è un'espressione che è fare un 48, vuol dire fare un casino, fare un bordello. Perché nel 48 fecero un bordello, ecco, nel 1848. E quindi sì, dai, facciamo un bordello, eh? Un bordello? Facciamo un bordello. Dai, bene, abbiamo un gran programma anche stasera. Anche oggi sì, ci siamo, si vuole dire brevemente cosa ci aspetta. Sì, dai. Dai, non teniamo. Anno nuovo, un sacco di novità, tra cui una nuova occupazione in città. Una nuova occupazione in città. Non vi diciamo nient'altro per ora, faremo un'intervista successivamente. Esatto. Quindi ne sapremo direttamente di più dopo. Vi raccontiamo anche il nuovo palinsesto di Radio Wombat che cambia in continuazione. E quindi vi vogliamo aggiornare. Ma è perché c'è fermento, perché c'è fermento, certo. Perché c'è fermento, esatto. E vogliamo vedere quali sono gli ascoltatori veri, quelli che riescono a destreggiarsi nonostante i programmi ogni settimana cambino di orario. Sì. Devono essere poi musica, rubriche cotonate. Tra l'altro anche un ritorno di una rubrica da un po' che non sentivamo. Qui sì, parleremo. C'è qualcuno alle spalle? No. No. Ok. E partiamo. Cucina, abbiamo Echida da lontano. Abbiamo inoltre un fantastico disco. Esatto, parleremo di un grande musicista. Tante chiacchiere di nuovo anno e di fine anno. E come al solito vi racconteremo alla fine cosa succede questa settimana. Sì. Buono. Direi. Vai con la canzoncina, la prima canzone. Con la prima canzoncina. Chissà cosa ci aspetta. Ooh, work it out, make it bad, make it bad, girl, I gotta She's gonna give you a little smile. You can all make it go. The separation of a thousand more. Ooh, make it bomb, make it bomb, make it bella. Eccoci, sì. Ci abbiamo il mixer che fa un po' le pizze. C'ha un'età anche lui. C'ha un'età anche lui. Mi sa che c'ha un'età davvero. Comunque, sì, ci risiamo dopo questa bella canzone. Direi che possiamo procediamo con la prima rubrica. Prima rubrica è il disco della settimana che il nostro amico Grippo ci propone. Salve. Evviva, evviva. Ciao belli. Ciao pizza. Come state? Bene. Bene, bene. Allora, disco Grippo della settimana. Allora, facciamo così. Vuoi fare un'introduzione sonora? Sto zitto e andiamo di introduzione sonora. Dai. Lasciamolo introdursi da sé al cantautore in questione, che bene, bene, benissimo lo sapeva fare. Oh yeah. Sì, sì. No, era tutto calcolato. Ecco lì. Forse no. Sentiamo un trattore in sottofondo. Sì. Sono la pecora, sono la vacca, che agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare. Eccolo qua. Lo avrete riconosciuto sicuramente dalla meravigliosa voce. Quest'oggi andiamo a parlare, dato che tra un pochino, 11 gennaio, siamo di ricordi brutti, siamo di morte di Fabrizio De André, di nuovo. E per ricordarlo, quest'oggi vi ho portato Anime Salve del 1996, il suo ultimo lavoro, fatto, diciamo, a quattro mani di base con Ivano Fossati, ma un album dalla storia veramente, veramente incredibile. L'idea di quest'album parte nel 94-95 da De André e Fossati, che si sono rinchiusi in varie location per lavorare a questo progetto comune che da molto tempo pensavano di fare. Questo è appunto Anime Salve del 96. E cosa succede? Nel 95 avevano iniziato a registrarlo fondamentalmente con il team di Fossati, no? Quindi c'erano Michele Ascolese, Elio Rivagli, Fossati stesso, altri musicisti che poi non parteciperanno alla registrazione definitiva dell'album, erano lì a fare una sorta di preproduzione in una chiesa sconsacrata in Romagna. E inizialmente ha curato tutto l'album questo Beppe Quirici, un bassista che aveva curato anche l'ultimo album di Cristiano De André e di Fossati stesso. Poi il lavoro veniva fuori troppo fossatiano, diciamo, troppo incentrato sul piano, e De André, come spesso ha fatto, ha rovesciato tutto, esatto, rimescolato tutte le carte e abbandonato la preproduzione in questa sede nel 95, per ricominciarla con Piero Milesi, che era un arrangiatore, uno sperimentatore elettronico e un grande conoscitore della musica etnica e della musica classica. All'inizio De André gli aveva dato un paio di pezzi per provare, lui si era offerto di arrangiarli e alla fine gli ha affidato l'arrangiamento intero di tutto il disco. Quindi il disco alla fine non è stato prodotto realmente da De André Fossati alla fine, è stato, diciamo, pensato e scritto da De André Fossati e poi prodotto in un secondo momento da De André, che ha mescolato tutte le carte a un certo punto. È un disco, le tematiche, diciamo, di base sono un paio, si possono riconoscere. Sicuramente di base è un disco sulla solitudine, e De André ne ha parlato spesso del fatto che fosse un disco sulla solitudine, sugli emarginati e in difesa di coloro che cercano soltanto di essere se stessi alla fine, senza fare di male a nessun altro, e costruire la loro propria individuale specifica libertà. E qui si arriva al secondo macro tema del disco, diciamo, cioè la libertà individuale, la libertà di essere se stessi. E quindi si guardano varie minoranze, può essere un transessuale nel caso di Princesa, può essere sempre caro, sì. De André, sì sì, il cantautore delle minoranze sicuramente, fin dal suo inizio. Una cosa interessante è che nella ricerca della libertà di tutti i personaggi di questo disco si cerca la libertà anche dal punto di vista musicale, perché infatti questo Piero Milesi, con cui ha arrangiato alla fine e prodotto il disco per la Ricordi, e tra l'altro ci dovevano essere altri due dischi, uno del 2000 e uno del 2003, era già sotto contratto per fare tre dischi, doveva essere questo Anime Salve e poi altri due che non vedremo mai per la morte di De André. E praticamente c'era un'attenzione particolare per le dinamiche degli strumenti, un particolare amalgama tra strumenti elettronici e strumenti etnici, proprio per uscire, per liberarsi anche dagli schemi musicali del tempo, che invece imponevano una musica più radiofonica, priva di dinamica per questo. Infatti è un disco in cui si sente alzarsi e abbassarsi il volume continuamente, c'è un'attenzione incredibile per i dettagli, per i respiri, per le pause della musica e dei pezzi veramente straordinari, delle poesie, delle storie raccontate da questa voce meravigliosa che tutti noi conosciamo, del grande Fabrizio De André. E Anime Salve voleva dire per Fabrizio De André spiriti solitari, si ritorna sempre al discorso dell'elogio della solitudine. E ha fatto tantissimi discorsi sulla solitudine di André nel presentare questo album. Lui sosteneva che quando si può rimanere da soli con se stessi si riesce più facilmente a entrare in contatto con il mondo circostante, che poi in realtà è fatto anche di propri simili, no? E quindi pone anche la solitudine come condizione in cui si riesce a trovare anche delle soluzioni, volendo, per gli altri che sono nostri simili. E niente, è considerato spesso Anime Salve come il testamento musicale e poetico di De André. De André sembra vedere un attimino il futuro con Anime Salve, come spesso ha fatto nei suoi dischi. Cioè, basti pensare un attimino a alcuni pezzi che abbiamo all'interno di, o alcuni passaggi che abbiamo all'interno di questo disco. Dice: mi sono visto di spalle che partivo. Quale frase più di abbandono e di morte c'è all'interno, si può trovare? Insomma, non la troverei. Ci sono riferimenti all'infanzia, c'è la figura della colomba, comunque, nel senso, pace, e andremo a vedere anche prigionia, volendo, cioè, perché c'è sempre il rovescio della medaglia in ogni canzone del buon vecchio Faber. Un team di musicisti incredibile alla fine è andato a incidere questo disco. Ci sarà un'orchestra d'archi sempre, cioè, presente in moltissimi dischi, il quartettone, Piero Milesi, arrangiatore, violoncellista, tastierista, eccetera eccetera, tutta la famiglia De André, Dori, Luvi, Cristiano, ci sono tutti, Cristiano più strumentista, Dori e Luvi ai cori. Ci sarà Mussida alla fine con Ascolese alla chitarra, Ella De Bandini con le percussioni particolarmente espressive sui tom. Probabilmente, cioè, a Fabrizio De André è piaciuto molto di più anche di questo, anche tutto il gruppo che poi si porta in concerto. Io sì, mi ricordo il concerto con i figli, appunto. Sì, sì, sì, sì, bellissimo, quello, insomma, scenograficissimo, anche clamoroso. E Ivano Fossati ha anche registrato la voce in due canzoni, però è questo l'apporto suo, diciamo, al disco finale, a parte la scrittura, diciamo. Ne nascerà un bellissimo tour, nasceranno bellissime cose, sarà premio Tenco dell'anno sia per il pezzo che per il disco, cioè Targa Tenco per il pezzo con Princesa, che è il primo pezzo che abbiamo sentito in sottofondo, questo sotto lo sentiamo invece è Cora Canè. E quindi niente, colgo l'occasione, inizio ad andare a parlare dei pezzi, parlo dei primi due e dopo vi lancio il terzo, che ve lo voglio far proprio sentire dall'inizio alla fine, senza chiacchierare, senza rompere le palle, insomma. Il primo pezzo, con l'apertura, si parla di un trance di Princesa ed è basato anche, cioè, qui De André ha preso un'opera non sua, cioè Princesa, per l'appunto, che è Fernanda Farias de Albuquerque, che era un libro scritto a quattro mani da Princesa stessa e Maurizio Iannelli, che era un ex brigatista che faceva nello stesso penitenziario con Princesa, per l'appunto, un corso di scrittura. Si sono ritrovati e hanno scritto questo libro, che parla appunto della storia di questo trans brasiliano, nata maschio, però è il suo cammino di libertà, ecco, di solitudine e è difficile verso la libertà, verso la sua femminilità, insomma, che lo porta verso la sua femminilità. Quindi è un trans adesso a Milano, si sente dalla canzone, che mira, ecco, a liberare la sua femminilità, esprimere in questa maniera la sua libertà, facendosi l'operazione e diventando donna alla fine. Poi abbiamo alla numero 2, quella che state sentendo in sottofondo, è una poesia di un autore rom, cantata da Dori Ghezzi, un momento di pathos immenso dell'album. E parla dei Cora Canè, che sono un sottogruppo di rom di religione musulmana. E niente, sui rom De André, alle sue conclusioni, sostiene che sono l'unico popolo realmente anarchico, in quanto non ha un confine da difendere o delle cose da difendere, essendo nomadi. Dice, insomma, che dovrebbe avere un Nobel per la pace soltanto per il fatto di aver girato il mondo per decenni, secoli, senza l'utilizzo di armi. Andiamo invece a presentare la canzone numero 3, che è Anime Salve, proprio molto fossatiana come canzone, molto pianistica. È una canzone che parla di molte cose, di solitudine, di tempo, di vita e appunto di spiriti solitari. Sentiamocela, viva! Dai. Sei anima mia, e che bello il mio tempo, che bella compagnia. Sono giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento,

eccolo qua, il pezzo numero 4, Dolce Nera. Si va a parlare ancora di solitudine, di un curioso tipo di solitudine, la presentava così Fabrizio De André, la solitudine dell'innamorato, soprattutto se non corrisposto. E qui su Dolce Nera, che insomma, se non ci fosse questa spiegazione di André, voglio vedere quanti è che l'avrebbero capita. Io per primo no, assolutamente. E è una specie di sogno parallelo, di storia parallela, tra da una parte c'è l'alluvione di Genova del 1970 e da quell'altra c'è un matto cotto innamorato in attesa dell'amante, appunto la moglie di Anselmo, no? E ci sono più strofe insomma, in questa canzone, e tra cui diciamo in una strofa proprio l'innamorato si perde in questo sogno, in questo delirio amoroso in cui lui avrebbe in teoria la moglie di Anselmo, che in realtà non è mai lì, cioè è invece in un tram che sta cercando di raggiungere, ecco, il protagonista della canzone. Dolce Nera è un po' la donna e un po' è questa pioggia maledetta che impedisce l'incontro tra i due amanti. Poi alla fine si chiude tutta quanta la storia con il suo tram scollegato da ogni distanza nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza, e cioè niente, cioè Dolce Nera, c'è questa donna, la moglie di Anselmo, che rimane insomma morta dentro, affogata dentro a un tram mentre sta andando a raggiungere il suo amore, il protagonista appunto della canzone. Quindi niente, un amore che non facendosi diciamo si fa, perché insomma è anche in un certo senso la riprova dell'amore che sarebbe stato questa morte per annegamento, perché lei va verso di lui nonostante questa pioggia maledetta. E De André paragona il sogno di questo amante in attesa a quello del tiranno, che tenta sempre di rimuovere ogni ostacolo che si oppone all'esercizio del proprio potere assoluto. Quindi insomma lo condanna abbastanza, condanna lui non lei, diciamo così. Pezzo numero 5, abbiamo Le acciughe fanno il pallone, che è un modo di dire ligure per dire le acciughe quando c'è l'ala lunga, quando c'è il pesce azzurro grande che sta per acchiapparle, che sta per mangiarle, fanno come? Che si allargano. Sì, fanno il pallone, cioè vanno verso la superficie e poi saltano per cercare di schivare, cioè di aggirare insomma la presenza di questo pesce grosso, no? E dice: se non butti la rete non te ne lascia una, nel senso arriva il pesce e te le mangia tutte. Quindi vuole dire un attimino cogli l'attimo, no? È un cogli l'attimo in salsa ligure, by De André. Le acciughe fanno il pallone, ce la sentiremo forse un pochino di sottofondo prima di lanciare l'altro pezzo che volevo presentare. Poi c'è Disamistade, che vuol dire inimicizia, faida in lingua sarda. È il brano preferito di De André e anche il preferito dell'arrangiatore Milesi. Qui c'è invece la disperazione delle persone innocenti che stanno nel mezzo a due dispute, a una disputa tra due persone. Cioè è ambientato in un paesino in cui ci sono due famiglie in questa disputa, e le persone all'ombra della chiesa innocenti che pensano che ci dovrà pure essere un modo per vivere senza dolore, ecco, per uscire da questa situazione. E invece la disputa e la faida in un certo senso calca i confini della loro solitudine e della loro, cioè, dà loro limitazioni, ecco. Poi abbiamo Agumba, la colomba in genovese, la canzone, e la colomba è una ragazza che vola via, diciamo, dalla sua famiglia per andare verso, in teoria, una libertà anche lei, è tutta incentrata, diciamo, sul dialogo del futuro sposo che cerca di convincere il suocero a concedergli la mano, esatto. E nel finale poi De André, come sempre, rimescola tutte le carte, ribalta tutto, ritorna alla solitudine della ragazza tralasciata, trascurata, e il marito invece fuori a divertirsi. Quindi, insomma, nel senso, si ritorna poi, sta colomba, ecco, torna di nuovo in prigione, sì, in un sì, certo sì. Senso, no? Prima nella famiglia e poi in un'altra famiglia marcia. Con Ho visto Nina volare invece si torna all'infanzia di De André, e Nina è un personaggio realmente esistito, una bambina che lui si fermava spesso a guardare andare in altalena quando andava in campagna nell'Astigiano e con i genitori. E Mastica e Sputa è interessante come cosa, perché è una pratica degli apicoltori molto antica, in cui si masticava diciamo l'arnia direttamente praticamente, e da una parte si sputava il miele che poi se lo doveva mangiare la cera in bocca, e la cera invece restava in bocca. E questa è una cosa che hanno visto in Basilicata, nel Materano, De André e Fossati, che quando si sono chiusi per fare insomma la stesura di questo album, non è che restavano chiusi, si andavano a fare anche delle loro giratine, soprattutto nel sud dell'Italia, a guardare queste situazioni e a cogliere la poesia, diciamo, live, ecco, quindi Mastica e Sputa, ecco, come gli apicoltori antichi. E anche qui di nuovo la ricerca della libertà, cioè il ragazzo che ama Nina, che però non lo può confidare al padre, quindi insomma le strategie sue per andare contro il padre: da una parte la violenza rappresentata dal coltello, dall'altra parte la maschera di gesso, cioè lo ingannerò, non gli dirò le cose, semplicemente per andare verso una libertà d'amore, ecco. Andiamo a presentare l'ultimo pezzo che ve lo voglio far sentire, anche questo per intero, che è Smisurata preghiera, che nel senso è un pezzo incredibile, di un'intensità assurda, uno dei miei pezzi preferiti, sì, penso un po' di tutti veramente, un pezzo che mette brividi tutte le volte, io piango ogni volta. Basato anche qui, De André prende l'opera di qualcun altro, ci ricama sopra e ne crea una poesia ulteriormente bella, ecco. In questo caso si ispira all'antologia poetica La Summa di Macrol, il Gabbiere di Alvaro Mutis, e prende un po' di titoli di poesie, una parte di una poesia intera, e li mescola e crea questa Smisurata preghiera, bellissima, il sunto dell'intero album, da cui emerge nuovamente l'amore per le minoranze contro una maggioranza incline soltanto a coltivare il proprio male, le proprie meschinità, no? Coltivando le proprie superbie, la maggioranza sta insomma e invocando nuovamente la salvezza per gli emarginati in una chiave, ecco, più umana, un discorso sempre di umanità, e che la fortuna aiuti anche quelli che non se la meritano, ecco, soprattutto. E niente, sentiamoci questa Smisurata preghiera, una canzone veramente bellissima, considerata da molti, ecco, il testamento di De André, è un po' la sua ultima canzone, cioè è la sua ultima canzone, e boh, come poteva chiudere meglio? Sentiamoci. Sui naufragi dai belvedere delle torri, chine distante sugli elementi del disastro, dalle cose che accadono al di sopra delle parole celebrative del nulla, lungo un facile vento di sazietà, di impunità, sullo scandalo metallico di armi in uso e in disuso, dare la colonna di dolore e di fumo che lascia le infinite battaglie al calar della sera. La maggioranza sta, la maggioranza sta recitando un rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure, inesauribili astuzie, coltivando tranquillità l'orribile varietà delle proprie superbie. La maggioranza sta come una malattia, come una sfortuna, come un'anestesia, come un'abitudine. Per chi viaggia in direzione passione ostinata e contraria, col suo marchio speciale disperazione, tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi, per consegnare alla morte una goccia di splendore, di umanità, di verità. Perché ad Agaba curò la lebbra con uno scettro postigio e seminò il suo passaggio di gelosie devastatrici e di figli con improbabili nomi di cantanti di tango in un vasto programma di eternità. Ricorda, Signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco. Non dimenticare il loro volto che dopo tanto sfandare è appena giusto che la fortuna li aiuti come una svista, come un'anomalia, come una distrazione, come un dovere. Rieccomi. La taglio un pochino questo finale, sta coda di smisurata preghiera, la taglio a malincuore per le esigenze radiofoniche, perché dobbiamo continuare, dobbiamo andare avanti e nulla. Ricordiamo il buon vecchio Faber, 11 gennaio. Esatto. Grazie, Faber, boia. Scritto album incredibile. Sì, grazie davvero. E niente, su Smisurata Preghiera una curiosità ultima, così volevo lanciare. È stata tradotta anche in lingua portoghese e lingua spagnola. Buona. Cioè proprio quando cioè De Andrea ha scritto a Alvaro Mutis, al poeta che ha scritto, diciamo, i versi originali, e è stata proprio tradotta da Mutis stesso per metterla come nei titoli di coda di un film, cioè è stata utilizzata. Poi c'è anche la versione spagnoleggiante, insomma, cioè la puoi sentire su internet, è più bella quella italiana, però insomma c'è sta, beh. Però nel senso è stata riconosciuta proprio anche da quello a cui è stato preso, diciamo, il verso iniziale. Niente, ragazzi, Wombat. Viva, sì. Faber. Noi torniamo un po' sulle nostre corde con sì, forse Fez. sulle tue, sì, sulle mie. Bene. Yeah. Jacksonville bubble, bitch. I'm that weird girl that's running shit. I'm a boss, bitch, running big shit. Got a company, need a couple mil. Ain't no rap talk, this my real life. And that's all God, almost died twice. So I go ahead, and I get mine. And I cash checks, and I get fly. Pele, Pele with the BB belt. Skinny jeans and a studded belt. I been fly, never needed help. I been me, ain't nobody else. Skinny jeans and a pair of Vans. Pants sag till they hit my ass. Lit, lit, I'ma do my dance. Like a raver bitch going in a trance. Every I'm a skater boy. Anime and a lot of toys. My space made a lot of noise. It's middle school and I'm acting coy. Back in the class, they sending my ass. Roll up my skirt and they think that I'm fat. I got no ass and I got no titties. But all of you dudes can hit me to hit me. Hold up a minute. No, I ain't did it. That is your man. And that ain't my business. So come for me different. You can make fun of me. But my bank account statement is something and something and something to see. I've been there with the shit. The rap shit I do and you bet. I ain't the best. But damn, I'm the best. You might get hacked. Or you might get checked. So don't disrespect, or it will be happier than that. This shit is the ill is. Is that Scream 3 finna kill shit? I'm a rap bull in a misfit, and I throw bones in a mosh pit. I bump bump that gangsta boo, that loco, that little check. I respect that trill shit, and I'm OGs that really rap. I'ma ready back with some new shit. You Dion and I'm clueless. I got my own movement. I do this, I move shit. I change rap forever, man. It's me who had the biggest plan. Ain't no average bitch, I've been the man. I've been the goat, eating off the land. It's me who took the weirdo shit to another level, and I'm killing it. They ain't want me, that's beginner-ish. No, I'm too high, and they suck my dick. Ciao. Eccoci. Ottimo. Allora, buono, buono, buono, ragazzi. Bella rubrica. Bel disco più che altro. Non la togliere la rubrica, questo mio grip, ma è un disco che si racconta e un po' da sé. E, detto questo, andiamo avanti. Dicevamo, anno nuovo, nomi grandi novità in città. Alcune non tantissime in realtà novità, però qualcuna però, bella sì. Una molto bella. Una molto bella. E quindi salutiamo i ragazzi compagni dell'occupazione della crepa che sono venuti a trovarci qua. Io non ti sento, ti aspetto e ti continuerò a dire ciao. Aspetta, prova a dire ciao. Ciao a tutti. Eccolo. Ciao. Evviva, evviva. Allora, ma l'occupazione è dell'anno nuovo? No, in verità... Più vicino al microfono. Anno vecchio in realtà, okay. Allo scadere dell'anno vecchio, diciamo, avvenuta il 28 di dicembre scorso. Sì. Dai, raccontateci un po'. Tra l'altro, visto che avete approfittato per il 31, c'era il Gran Baldoria da voi. Sì, sì, diciamo che abbiamo fatto Baldoria, sì, per Capodanno. Super chi testa. Non la fa, esatto. Certo, tutti. E, no, partiamo un attimo, appunto, raccontateci un po' cosa è successo e anche un po' le motivazioni che vi hanno spinto a muovervi. Abbiamo deciso di occupare uno spazio, di liberarlo, di toglierlo al disuso, all'abbandono totale. Era uno spazio vuoto da diversi anni, almeno una decina. E, diciamo, le motivazioni che ci hanno spinto a questo gesto sono una necessità che noi riteniamo un po' di tutta la nostra generazione, ovvero quella di avere spazi propri, autogestiti, spazi di creatività, di libero pensiero, spazi che ovviamente in una città come Firenze mancano sempre di più, sempre di più, esatto, sì, certo. Esatto. Anzi, diciamo, non mancano, però sono sempre meno, sempre sì. Meno. Si provano a levare, insomma. Esatto, esatto. Recentemente anche è successo, no? Quindi... E niente, appunto... Uh, Siete in due? Attenzione, sì, sono in due. E, sì, non solo. Poi, secondo me, e secondo noi, c'era per l'appunto questo bisogno di crearcela una realtà, uno spazio autogestito, perché si sa, a Firenze gli spazi autogestiti ci sono e comunque rappresentano anche nel loro totale un po' un bel mischione di realtà che un po' tutte ci comprendono, ma non tutte in pieno. E quindi noi avevamo bisogno per l'appunto di crearci da soli, di prendere in mano la situazione, e per l'appunto siamo, diciamo, più o meno tutti coetanei e niente, volevamo per l'appunto prendere un posto, crearlo, improntarlo, e dandogli anche un nuovo stile, come se fosse, diciamo, una nuova presentazione di quella che può essere la lotta cittadina, di quella che può essere anche una politica attiva di strada in città, diciamo. Ecco, ma in quale parte della città? L'occupazione si trova all'Isolotto, l'ex INPS, naturalmente l'abbiamo chiamata la Crepa proprio perché già c'era stato fatto un evento che era una TAZ, una Temporary Artistic Zone, però noi per l'appunto l'abbiamo richiamato la Crepa perché secondo me c'era molto questa idea di vedere di porci come, diciamo, quel germoglio che nasce dalla crepa, no? Per l'appunto, come vediamo nei marciapiedi, che nonostante ci sia cemento su cemento, lo stato di abbandono, a volte le crepe nelle strade fanno nascere qualcosa. E per l'appunto volevamo porci un po' così. Ecco, è un bello spazio, fra l'altro. Ah, aspetta, il dove intanto? Ben raggiungibile. Sì, è ben raggiungibile poiché si trova di fronte alla fermata Federica, in viale via Foggini 18 e viale Talenti, proprio alla rotonda, sì, in uno snodo. Sì. E è un bello spazio, bello grande. Sì, per l'appunto abbiamo, diciamo, preso questo spazio con due saloni enormi dove ci proporremo di fare per l'appunto. Noi già che avevamo preso l'iniziativa volevamo provare a introdurre uno studio grafico con i nostri progetti, poiché molti di noi lavorano, diciamo, per passione in quest'ambito, e poi in realtà le idee sono tante, ma naturalmente vogliamo anche un po' capire quali sono le necessità di quartiere, poiché per esempio molta gente era interessata all'idea della creazione di una palestra o della creazione di una sala concerti, e per l'appunto abbiamo notato che ce n'è mancanza, poiché nonostante sia relativamente poco il tempo in cui siamo lì, da cui insomma... Sì, sì. Già da subito la gente si è dimostrata interessata anche per strada, poi chiaro non tutti, ci sono gli alti e bassi come in tutti i posti, ma anche magari qualcuno deve ancora conoscervi, ancora sapere, esatto, anche soltanto quello che è successo. Però effettivamente l'apertura di uno spazio del genere, mi viene in mente che in un quartiere possa aprire mille prospettive, nel senso che chiunque senta la necessità, da parte un musicista, un pittore, un cazzo ne so, qualsiasi cosa, può venire lì e dire: ragazzi, ma nel quartiere manca sta roba, io da tanto che ci sto dietro, ma non che ne so, anche soltanto, appunto, come dicevate, un studio grafico, un luogo dove nasce uno studio grafico, dove non debba costare un affitto di un posto, eccetera eccetera, può aprire molte prospettive appunto su un quartiere che comunque anche, mi sa, tanti abitanti. Sì, ha parecchi abitanti e soprattutto è un quartiere molto interessante, perché è uno dei pochi quartieri in cui si sta mantenendo ancora, diciamo, quella che a noi piace chiamare una coscienza popolare, ovvero che non si lascia abbattere da quella che è la gentrificazione, che in una zona che sì, è quasi alle porte del centro, però è anche periferica, e quindi viene, diciamo, in un certo senso scacata totalmente, sì. Cioè, quindi lasciata all'abbandono, alla desolazione. Non gli fanno neanche la passerella. esatto. E appunto, cioè, la scelta del quartiere per noi è stata anche abbastanza importante, perché cioè riuscire a portare in un posto vuoto, appunto, attraverso una crepa, nel grigiore, nella desolazione, un posto che potesse proporsi come culturale ma anche ricreativo e appunto dare vita a nuovi progetti. E poi, appunto, dato che la vita del posto è ancora è breve per adesso, perché è nata da poco, stiamo aspettando proprio, siamo vogliosi di ricevere anche proposte da quella che è la componente del quartiere, ma anche da persone esterne interessate comunque sia, certo, a riempire uno spazio. E certo. Ecco, in questo senso avete fissato delle assemblee settimanali? Sì, giusto? Sì, esattamente, abbiamo fissato un'assemblea pubblica a settimana, tutti i lunedì alle 18. Perfetto. E appunto di libera espressione, esatto, anche oggi ci sarà tra poco, e poi diciamo un modo che a noi ci è sembrato molto interessante per costruire rapporti e quindi anche conoscersi, abbattendo quelle che sono le barriere iniziali, è quella di proporre una cena sempre settimanale condivisa, ovvero dove ognuno, se è interessato, ma cioè, può venire anche sfornito, però diciamo porta qualcosa da mangiare tutti, certo, insieme, e che si svolge tutti i giovedì alle 8:30 di sera. Quello fa, nel senso di mettersi a tavola e esatto, non dover per forza... Secondo me è uno dei momenti sociali per eccellenza. Sì. Esatto, esatto. Ma non solo, fra l'altro giovedì scorso, se non mi sbaglio, c'è stata una cena, giusto? Sì, sì, si è fatto diciamo la prima prova di quello che voleva essere... Cioè, si è fatta e poi si è detto, vabbè, ganzo, continuiamola. Cioè. Io devo dire, ho partecipato e mi è sembrata una c'era bella anche serata. Filmino? Sì. C'era anche filmino, vero? È vero, c'era anche un film, come si chiamava? Il Buco. Ah sì, abbiamo proiettato Il Buco, che è un film del 60 e che praticamente toccava un tema per noi abbastanza importante, ovvero quello della prigionia, il tema delle carceri e soprattutto del ribellarsi alla condizione di carcerato. Infatti è un film che parla di una tentata evasione e fa vedere, diciamo, in una maniera anche molto che crea empatia, come dei carcerati riescono a organizzarsi insieme per evadere da quella che è la prigionia. E, è andato molto bene come proiezione. Ci credo. No, buono. Sì, devo dire, a parer mio, una delle migliori sale proiezioni. Sì, sì, si vedono anche parecchio bene, quindi io consiglio vivamente di fare un salto. Ecco. No, comunque a parte, dicevate che c'erano già gli spazi sociali in città, e quindi, però effettivamente, a parte anche una questione geografica, nel senso che in quel quartiere, mi pare di no, non mi sbaglio, ma no, ok. Praticamente diciamo, mai stato. C'è stato, ma tanti anni fa, l'Elettro Più. Sì, esatto, però diversi anni fa comunque. 2004, 2005 sì, mi sa che ha chiuso, forse 2006. Solo te lo ricordo. e al di là di una questione geografica, quindi in realtà, che però non è da poco, nel senso che si... Tutti i quartieri iniziano a essere coperti da uno spazio che diventa di aggregazione e di socialità che abbia forme diverse da quelle proposte. Diciamo che si va verso una direzione quantomeno auspicabile, quantomeno che ci rende contenti. E al di là di quello, appunto, era anche per dare, io immagino non sia un'identità nel senso un'identità chiusa che deve essere, però è quello che state dicendo, cioè un'apertura che poi a creare un'identità, cioè dà un'identità in più a un quartiere, a una zona della città o alla città stessa, tra l'altro. Sì, sì, esatto, è proprio, diciamo, è proprio quello che noi ci proponiamo, no? Riuscire ad avere un posto anche dove chi comunque sia magari già, diciamo, lotta quotidianamente, però magari è legato anche al proprio quartiere o ai propri spazi, così possa ritrovarsi anche all'interno di questo nuovo posto. E poi appunto l'idea di avere più posti in diverse zone della città, cioè può anche essere la base per poi creare una rete davvero di conoscenze e di solidarietà fra gli abitanti, che ci sembra parecchio importante, soprattutto in questo periodo. Ecco, invece visite brutte in questi 8 giorni, 9 giorni? Ma visite brutte, diciamo, che si può dire, ma non in particolare. C'è stato uno stacco dell'acqua e poi una sera sono passati dei ragazzi, molto probabilmente fascisti, in macchina, che però si sono limitati a urlare da dietro una ringhiera e poi a fuggire appena hanno visto una persona sbucare fuori. Quindi, insomma, coraggioso alla fine. Sì, sì, molto coraggioso, esatto, come sempre. Sì, sì, sì. E per il resto, in realtà, brutte visite, no. Bene, dai, meglio decisamente, sì. Anzi, speriamo proprio non ce ne siano. No, esatto. Di nessun tipo, direi. E, progetti futuri, nel senso, a parte l'assemblea già avete tra mezz'ora, quindi vi consiglio anche di muovervi. E, tra poco vi lasciamo andare. Sì, sì, sì. E, il giovedì la cena. E poi non so se va avanti così, anche immagino per costruire un po' di rapporti e di cose. Poi sì, quello sicuramente. Già, diciamo, stiamo scrivendo qualcosa da poi volantinare in quartiere, e nello specifico ci tenevamo a farlo per le scuole, per i licei, proprio perché ci siamo resi conto che spesso sono i liceali che si ritrovano, insomma i liceali, gli studenti in generale, che si ritrovano a non avere spazi dove incontrarsi e pian piano neanche più le piazze. Quello quindi, esatto. E poi i progetti, chiaro, vogliamo rendere quel posto bellissimo. Certo. perché quindi, effettivamente, di partenza è un po', io me lo ricordo un po' sgarrupato dalla Tazza. Sì, sì, sì, sì. Ma infatti già stiamo lavorando per rimetterlo a posto, renderlo, diciamo, vivibile per chiunque, e in più renderlo anche artisticamente apprezzabile. Quindi pensiamo di farci non so, graffiti, disegni. Infatti invitiamo chiunque disegni, sia artista, a venire e proporci un suo progetto. Bene. Se qualcuno vuole, volevo aggiungere uno dei progetti, diciamo, che stanno nascendo nel posto e che, boh, secondo noi è abbastanza interessante, perché è una forma di ribellione veramente forte, di lotta, e soprattutto è moderna e attuale, ovvero c'è l'intenzione di far nascere una club dove, appunto, boh, innanzitutto informarsi, conoscere cos'è la tecnologia, l'informatica, questo mondo, no? Così che è ancora così oscuro. Esatto, così oscuro, ma però usato tutti i giorni. Esatto, esatto. E spesso usato influente, con inconsapevolezza, no? Esatto. Senza rendersi conto che può essere un'arma veramente anche nelle mani di tutti noi, e può essere usato veramente bene. E quindi anche lì state connessi, che appena sapremo un po' quando farlo partire, lo faremo sapere, insomma. Per essere aggiornati sulle prossime attività, queste cose qui, c'è un sito, sì, una pagina Facebook. C'è una pagina Facebook, Occupazione La Crepa, e insomma lì trovate tutto ciò che facciamo, che stiamo iniziando a fare, e le proposte, eccetera. Tra l'altro, tra le tante, anche ci sono stati dei ragazzi e delle ragazze del liceo Machiavelli Capponi che sono venuti per fare un'assemblea in questo posto e per l'appunto l'hanno ritenuto, cioè gli è piaciuto a tal punto da chiederci se potevano riunirsi col collettivo femminista che si chiama Spine nel Fianco, una volta ogni 2 settimane lì, proprio perché volevano dare, insomma, gli piaceva il posto e volevano parteciparvi. Bella questa, è un'ottima notizia. Sì, anche appunto per dare anche un tetto a delle assemblee, a delle situazioni, esatto, che altrimenti, esatto, effettivamente magari hanno difficoltà. Ci sono degli spazi che offrono comunque ospitalità, l'hanno sempre offerta, però se ne nasce uno in più, nuovo, che non è negli stessi luoghi, cioè veramente roba buona, sono molto contento. Non mi ricordo, volevo chiedere un'altra cosa, mamma mia, malamente. Vabbè. Ragazzi, restiamo in contatto. Sì, no, cosa volevo dire, che da qui, da Fuoco alle Polveri, sempre il microfono è sempre acceso se volete venire a chiacchierare, a raccontarci qualcosa o a proporre al ampissimo pubblico dei radioascoltatori. Grazie mille. Di tutte le vostre iniziative. E nulla, vi salutiamo. Dai. Grazie. A voi. Presto. Ciao. Allora. Faccio partire un pezzaccio. Oh, dai, vai un pezzaccio, vai un pezzaccio. Sì. Dai, compagni, vai. On est en bâton hall, un équipage sombre, des gants noirs, c'est ma clique. Pareil, c'est Poudlard, mais des lignes, c'est magique. C'est pas moi qui danse, c'est mes jeans qui m'agitent. Je te reconnaîtrai, je te reconnaîtrai. Ça va, ça vient, ça repart dans une boîte. Des matins, le soleil se lève pour tout le monde. Des matins, la braque se lève que pour Watt. Si t'essayes de me perdre, tu te réveilles assez tôt. Acheter des balles vides, des chargeurs, ça détend. Je suis pas devenu un loup pour finir en chien. Ouais, vas-y, l'ancien, mange tant que t'as des dents. Quand la vie nous balave, c'est de la haute couture. On assume la suite sous 2 grammes de puff. Les carottes sont cuites, personne parle de meuf. Personne parle de fille, trouve-moi des balles de neuf. J'suis moitié bâti, j'suis moitié cala. Le dragon dans mon dos quand toi t'es pas là. La sauce en boîtée, pousse-toi, j'ai le doigté. Pousse-moi de la machin, j'te fais le Guatemala. J'ai déjà tout lâché dans les bras de mon frère. Cache pas le nom des morts, sans remords, tu crames. Les regrets d'une vie, les larmes d'un homme ne couleront jamais comme les pleurs d'une femme. Fianzo, l'équipe est toca, ish, ish. L'équipe est toca, ish, ish. L'équipe est toca, ish, ish. L'équipe est toca, ish, ish. Algi Paris Bagdad, ouais. Algi Paris Bagdad, ouais. Algi Paris Bagdad, ouais. Algi Paris Bagdad, ouais. L'équipe est toca, ish, ish. L'équipe est toca, ish, ish. L'équipe est toca, ish, ish. L'équipe est toca, ish, ish. Algi Paris Bagdad, ouais. Algi Paris Bagdad, ouais. Algi Paris Bagdad, ouais. Algi Paris Bagdad, ouais. J'ai besoin d'une filière pour m'évader. On sortira de là en coupant le grillage. Des braqueurs de fret, de centre de triage. Ça sent pas le sapin, ça pue l'embrayage. En ce moment c'est tendu, on sort pas de nos villes. T'as pas vu mon pif, me prends pas de profil. Va niquer ta mère, ça fait 4 mobiles. Sorti 4 pour blague, on fasse ton Batmobile. Kader est sorti, gros son racketeur. On trahit pas la Honda, gros t'as craqué. J'arrive dans ton club pour chanter une heure. En partant je récupère tout ce que t'as claqué. Tête descend son jean, tête garde ses talons. Devant Fianso tu verras qu'elle dit ballon. Marche arrière cassé, j'ai visé le haki. La balle qui est partie revient pas dans le canon. J'rappe mon style de vie, tant qu'il reste du flow. Gros frère j'ai frappé, j'ai pris votre huiblo. J'suis dans la dream team, j'récupère ma prime. À l'heure de ton crime, j'ai pris ta hublot. J'sais pas dire adieu, j'sais pas dire je t'aime. Le démon sorti, j'me retiens plus courir. Les regrets me tuent, les souvenirs me prennent. Dans la nuit j'appelle mon père quand j'suis bourré. Fianso, l'équipe est toca, ish, ish. L'équipe est toca, ish, ish. L'équipe est toca, ish, ish. L'équipe est toca, ish, ish. Algi Paris Bagdad, ouais. Algi Paris Bagdad, ouais. Algi Paris Bagdad, ouais. Algi Paris Bagdad, ouais. L'équipe est toca, ish, ish. L'équipe est toca, ish, ish. L'équipe est toca, ish, ish. L'équipe est toca, ish, ish. Algi Paris Bagdad, ouais. Algi Paris Bagdad, ouais. Algi Paris Bagdad, ouais. Algi Paris Bagdad, ouais. Ish, ish. Ish, ish. Ish, ish. Ish, ish. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ish, ish. Ish, ish. Ish. Bitch. What? What? What? What? What? Yeah. Oh. Va. Bella. Chi c'è qui sotto a noi? Chi lo sa? Che cos'è questa cosa che hai mandato sotto? Questa di ora? Sì. Ti mettendo più il tappo così a me. No, questa si chiama. Sono i Baby Woodrows. Ok. Down to the bottom. Down to the bottom. Ora. Salve a tutti, sono arrivati anche altri, vanno via i ragazzi della Crepa e arrivano due fenomeni invece che conoscete tutti molto bene. Ciao Grippo, che ti salutiamo, sta andando via anche lui. Eccoli. Ciao. Un po' di confusione, e un po' di cambio. C'è un po' di cambio, sì, c'è un po' di cambio. Nel frattempo noi andiamo avanti a farci le nostre chiacchiericce del lunedì. Yes, yes. Io volevo consigliare così un paio di articoli che mi ero letto in questi giorni e che trovate su carmillaonline.com, che è un blog di letteratura. Un gran bel blog, sì, che si chiamano Pastorale, cioè si chiamano perché sono due che si chiamano allo stesso modo, e si chiamano Pastorale Americana. Pastorale Americana è un libro abbastanza bello di Roth. Pastorale Emiliana sono il titolo di questo articolo, diciamo diviso in due parti, di Giovanni Iozzoli. E che aspetta, oddio, non lo faremo mai più. Cose strane. Tuo caro. E racconta in modo abbastanza anche abbastanza divertente, pur non essendo per niente divertente la situazione che racconta, del distretto agroalimentare emiliano, in cui, come abbiamo anche raccontato diverse volte, in questi ultimi anni si sta intensificando e sviluppando nuove forme di sfruttamento del lavoro, soprattutto, e anche poi del territorio. Vi leggo brevemente, se riesco. Sì. I protagonisti. Mi sto intortando, scusatemi. I protagonisti di questo articolo, ossia i protagonisti di questa situazione che viene descritta, di questo agroalimentare, che sono i padroni, le centrali cooperative prendono, e vi leggo anche brevemente i sottotitoli di queste, che poi trovate tutto all'interno dell'articolo, che magari vi linkiamo. Quindi ci sono i padroni. Ci sono le centrali cooperative che prendono le distanze dal sottobosco malavitoso per tutelare il buon nome della vera cooperazione. Ma se il termine cooperativa è diventato una parolaccia, è anche colpa loro, delle loro omissioni e complicità. Poi ci sono le cooperative spurie. Le mafie hanno scoperto questo mondo negli anni 90 e se ne sono innamorate. Costruire aziende cooperative, riciclare, vincere finti appalti, infilare al lavoro i picciotti in semilibertà. I sindacalisti. Ne sono passati tanti, dentro e davanti a quei cancelli. Non si deve essere ingenerosi o qualunquisti. Molti danno l'anima per organizzare e dare sbocco alla rabbia sorda della gente. E si va domani mattina alle 5 ai castelli di Castelfrigo dell'Alcar. Lì si trova davanti col megafono e la bandiera. Ma tanti sono stati anche i vili, gli imboscati, gli impotenti che allargavano le braccia davanti a ogni abuso. Poi ci sono i questori, che hanno messo le forze di polizia al servizio delle aziende, a presidio della santa continuità produttiva, come se la questura fosse l'agenzia Pinkerton, che almeno non era pagata dai contribuenti. Poi ci sono i PM, che hanno lavorato con fuga nei mesi scorsi per liberare le aziende dalla morsa dei sindacalisti molesti. L'inchiesta contro Aldo Milani, che vi ricordate, ne abbiamo anche parlato, di quale dispiegamento di uomini ha potuto giovarsi, telecamere nascoste, microfoni, intelligence, agenti provocatori e trame raffinate. Poi ci sono i consulenti, ci sono i diretti, che sono i lavoratori che, diciamo, che entrano sempre e comunque in fabbrica, nonostante gli scioperi, nonostante i picchetti, nonostante tutto quello che sta succedendo. Poi ci sono i politici, che cominciano a affacciarsi ai cancelli degli stabilimenti in lotta in vista delle prossime elezioni. Poi ci sono le rotatorie, che dice che sono l'elemento continuativo di tutto il paesaggio industriale emiliano, ci sono solo rotonde a giro. Certo. E poi ci sono gli schiavi riottosi, che infine vi leggo. E poi finalmente c'è la contropastorale, il coro stonato e furente di Ahmed, Tashi, Antonu, Chen, Salvatore, Frank e molti altri pirati del prosciutto che, coltello e mezzi denti, si stanno lanciando contro le vestigia scassate del modello emiliano. Si ribellano perché non hanno altra scelta, sono le vittime sacrificali del futuro luminoso che ci attende, i neoschiavi dell'economia servile 4.0. E questo poi è tutto l'articolo, funziona così, quindi con tutti i personaggi che si muovono all'interno di questo scenario mostruoso, che è quello del, dell'impero agroalimentare dell'Emiliano. Poi è uscito pochi giorni fa un altro articolo, se siamo a Pastorale Emiliana 2, e ve l'ho andato a leggere, vaffanculo. Però che racconta di una di queste grandissime aziende, che è la Castelfrigo, che in cui sono stati riassunti, ci sono stati 127 licenziamenti, è partita una grande mobilitazione, 52 persone sono state riabilitate al lavoro, sono state riammesse al lavoro. Per l'appunto sono gli iscritti alla CISL che non hanno aderito a nessuna delle proteste che c'è stata dopo queste... Oh mio Dio. Quelli bravi? Quelli tranquilli, quelli bravi sono stati riassunti, gli altri non sono stati riassunti. Quindi questo articolo racconta anche di questa, di questo bel momento. Quindi... male. Comunque no, li linkiamo nel podcast, assolutamente, sono canti. Assolutamente. Io direi, io penso la scaletta, ce l'ho io, e ora posso dire che come quando si è tristi cosa si fa, si mangia, certo. Si pappa. Come dicevano i ragazzi prima, cioè, cosa, non c'è niente di meglio che la società pappando. Esatto. Però per pappare bisogna cucinare. Beh. E quindi... Impastillo spirillo. Impastato di sbagliato. Bene ragazzi, si torna, tanto che non si impastava. Senti, posso inserirmi anch'io? Certo. Ciao a tutti. Ciao tu. C'è tuo ragazzi. Ciao ragazzi, scusate il ritardo. Ero venuto in mongolfiera. Sono venuto in mongolfiera, sì. La mongolfiera. Grande mongolfiera. No, grande mongolfiera. Ci mettevo meno. Certo, sicuramente. Ma mongolfiera mi sa che si va da svelta comunque. Comunque c'è un momento dietro questo ritardo, chissà se lo potremo raccontare. Forse. Allora, il grande sonno di grande non si può disturbare. E il grande aspettare. Gran ritorno, impastillo sbirillo. Impastillo sbirillo, era probabilmente dal 2017 che non si faceva. Accidenti. Probabile. Probabilmente, ma quasi di sicuramente. Comunque, cosa vi ho portato? Volete sapere? Sì. Yes. Ho portato la ricetta del baccalà alla fiorentina. Oh, per esattezza. Buono. Buono, il baccalà alla fiorentina. Adoro. Ragazzi, questi sono piatti succulenti. Di cosa parliamo? È una ricetta semplicissima, antichissima, bene, perché il baccalà arriva a Firenze veramente da tanto tempo. E cos'è il baccalà, tanto per iniziare? Già questa cosa invece l'avevo introdotta, perché lo sbrillo c'era stata un'insalata di baccalà estiva, era secondo me primavera, era qualcosa di freddo. Invece il baccalà alla fiorentina è un piatto bello caldo, bello sostanzioso, favoloso. Il baccalà è... intanto si parla di pesce. Va bene, è un merluzzo. Si parla di merluzzi. Per l'esattezza, ci sono vari tipi di merluzzo. Comunque, quello usato da più succulento, più buono, è quello che arriva dalle regioni fredde, dagli oceani. Gli oceani tendenzialmente, o dall'Artico o dall'Antartico. Comunque, il più buono è il Gaspi. Va bene, che è un merluzzo che arriva dal Terranuova. Da Barcellini? Dalla Gaspesia. No, da Terranuova Barcellini, no, da Terranuova, sono le coste del Canada. Certo, il Canada. Le coste, sì, orientali, del Canada. Tendenzialmente ci sono sia il Gaspi che il Labrador, che sono le qualità. Stavo per dire Labrador. Il Labrador, sì, esatto. Un sacco ridere. Sono le più buone. Il Gaspi in particolare è un po' più grasso, un po' più morbido, più tenero, più succulento. Consigliabile. La ricetta è molto semplice, prevede appunto di... allora, va bene, piccolo pre, il baccalà è salato, viene conservato salandolo, messo sotto sale. È il merluzzo messo sotto sale. È il merluzzo messo sotto sale. Mentre quando quello seccato... Quello è seccato e salato è lo stock fisso. Bravi. Quindi, e sono merluzzoni. Sono merluzzoni, sì, sono merluzzi. Sono merluzzi. Sono grossi. sono grossi, sono grossi, sono grossi. In generale merluzzi mi sa che sono grossi. Vengono pescati all'amo, cioè voi dovete pensare che dietro con le pancalacche che vi mangiate c'è un pescatore con due braccia di tonno che se le tira su con l'amo. Dici? Ma non penso proprio. Comunque in Portogallo che ne vanno romantico. Molto ghiotti, no? Di in Portogallo c'è sì. Il baccagliau bravo. Infatti il nome baccalà proviene proprio dagli spagnoli, dagli iberici, che lo chiamano bacalao. Esatto. Bacalao, che a loro volta l'hanno preso dagli olandesi, che sapevo. Invece loro lo chiamavano cabala. Cabala. Cabalau. Cabalau. Ah, cabalau. E infatti in Portogallo nei supermercati... ce n'è zip di baccalà pieni sono matto portoghese, c'è un pulso infatti. Comunque andiamo avanti. Comunque come lo facciamo? Allora, intanto lo dovete ammollare se non è già stato ammollato bene, se no è troppo salato, è immangiabile veramente. Lo tenete a mollo per una giornata, una 24 ore, dopodiché sono grossi tranci solitamente del baccalà, lo tagliate a pezzi, va bene, fate più o meno dei pezzi grandi quanto il palmo di una mano, una cosa del genere. Li dovete infarinare ben bene e poi dovete metterli in un tegame con abbondante olio e qualche spicchio d'aglio stiacciato che voi avrete già fatto rosolare. Quindi quando l'aglio è rosolato ci mettete questi tranci di baccalà. Ce l'hanno sottofondo. Mi sento una voce nel si mettere lo nella notte. Della padella. Un tonno nell'oceano è nuoto. Un tonno nell'oceano è nuoto, sì. Solo. Nell'oblio dell'oceano della Groenlandia. Comunque nel mentre noi abbiamo fatto quindi rosolare l'aglio. Abbiamo fatto rosolare l'aglio in abbondante olio. Ci sverghiamo questi tranci di baccalà e li facciamo anche si cuocere sia da una parte che dall'altra. Bene, quando saranno ben dorati vanno mossi abbastanza di fermento, perché sennò si appiccicano al tegame. Una volta rosolati, sale potete anche evitare, perché tendenzialmente tanto. Il baccalà è salato, poi magari lo aggiustate dopo, e okay. Invece un po' di pepe ce lo potete mettere, una presa di pepe non, sempre mettere pepe non guasta. Una volta rosolate tutte e due le parti, qualche cucchiaio di pomodoro, un po' d'acqua, e lo fate finire di cuocere. Ma senti, ma quanto lo cuoci questo baccalà? Il baccalà, nel senso, più o meno. Tieni conto che il baccalà più lo cuoci e più diventa... e più diventa sodo, va bene? E meno ti si spappola. È vero. Quindi però naturalmente, cioè, voi lo dovete girare, ci vuole poco a cuocere il baccalà, è pochissimo, cioè tenete 3 minuti da una parte, 3 minuti dall'altra e sì, altri, cioè, 5 minuti sull'olio è così. Se lo fai invece utilizzando magari i chiudi con un coperchio che usi il vapore, se lo cuoci troppo poi si sfalda, sì. Che poi è buonissimo perché mescola con i sapori, però... lasciatelo scoperto. Poi gli lasciate altri 10 minuti di cottura con la salsa di pomodoro e un po' d'acqua e è pronto, ragazzi. Servitelo caldo, mangiatelo con polenta, mangiatelo col pane, come volete. Buonissimo. Pane. Buonissimo. Bello. Regà. Buono. Che devo dire? Nulla. Che cos'altro devo dire? Non lo so, noi ti ringraziamo innanzitutto. Noi questo ti ringraziamo. Io a questo punto ho tirato fuori un libro che tu mi invidi da un po' di tempo, che... se vi interessa la vita sottomarina di tanti pesci, tra cui anche il merluzzo, ma soprattutto queste un po' più grosse, il libro si chiama Il libro del mare, o come andare a pesca di uno squalo gigante con un piccolo gommone nel vasto mare, di Stroknes, a Martin Stroknes, che è un tizio norvegese. È un libro molto bello che unisce il romanzo alla storia naturale degli oceani. È che figata. Abbastanza una figata. Quindi... Beh. Viva il merluzzo, viva il mare. Abbiamo parlato un sacco di mare. Viva Radio Wombat, viva fuoco alle polveri. Ciao, viva ragazzi. Noi, viva voi. Pezzaccio? Sì, vai. Vai, pezzaccio e sigla. Dai. Grazie. Live shout out hallelujah. Who's gonna sing out loud? Carry these men and women who get lost when the sun goes down. E eccoci qua con l'uno dei Balcani. Siete contenti? Contentissimo. Super contentissimo. Anch'io sono molto contento. Allora, eccoci qua dopo un po' di tempo. No, in realtà non ho parlato neanche troppo fa, quando ho raccontato da Sarajevo. Ho letto quell'estratto dal libro che raccontava un po' le tremende vicende dell'assedio di Sarajevo. Invece ci spostiamo sempre nei miei amati Balcani e andiamo a Bucarest, capitale della Romania. E vai. Dai corpo. Molto bene, molto bene. Allora, è una storia particolare, forse l'avrete già sentita perché fece scalpore, però in effetti noi non eravamo nati, quindi eravamo appena nati, quindi l'abbiamo letta a posteriori, casomai. Tutto parte da appunto da Bucarest e dalla costruzione dell'immenso Palazzo del Parlamento o Casa del Popolo, come doveva essere all'inizio, Casa Poporului, che è come in romeno, che è il palazzo voluto appunto da Ceausescu. Esattamente, da Ceausescu per ospitare appunto tutto l'apparato di governo, dirigenziale del Partito Comunista rumeno. Opera colossale. Occupa una superficie, vi darò un po' di dati, perché Bravo. È particolare, una superficie di 350.000 metri quadri. Urca. È il secondo edificio più grande del mondo per estensione e il terzo per il volume. Subito dopo il Pentagono viene. Ok, per renderci conto. La valutazione immobiliare si aggira intorno ai 3 miliardi di dollari. Appunto, il suo nome originale era la Casa del Popolo, che poi è diventato invece il Palazzo del Parlamento una volta caduto il regime. Però i romeni, dice, comunque tuttora lo denominano Casa del Popolo. E ne vanno fierissimi, fra l'altro. È una costruzione veramente gigantesca. Quando si va a Bucarest non si può non vederla, perché è immensa, è una cosa spaventosa, tutta bianchissima, sì, bianco-grigio. Io ho conosciuto un muratore che ha costruito, che ha lavorato nella costruzione e me ne parla tutte le volte. Ci vede, davvero? Sì, no, ma dovresti portarcelo, direi. Dovrei portarlo. L'ho intervisto. L'ospite perfetto. Scherzi. Allora, la progettista del palazzo è l'architetta, cioè l'architetto femmina, Anca Petrescu, che vinse l'appalto nel 1981. Il palazzo viene terminato, ultimato nell'89. E poi alla vigilia, poi in realtà della caduta del muro e di conseguenza, bravissimo. Ci sono, insomma, è un palazzo dal punto di vista architettonico molto eclettico, se vogliamo raccontarlo. Appunto, da una parte un classico socialismo, e insomma, veramente immenso. Allora, misura 270x240 metri. È alto 84 metri e si estende per 92 metri sotto il suolo. Questa cosa è importante perché c'è un bunker sotto. Più sotto che sopra. Certo. Esattamente. Più sotto, no. In su 270 metri, però 92 metri sottoterra. Ci sono 1000 stanze dentro. Mille, okay, precise? 1000 stanze. Mille! Con due, mille, mille, mille. Con due ulteriori livelli sotterranei, che però non sono in uso in questo momento, o ci dicono che non sono in uso. Due delle gallerie, ma ci sono 60 gallerie. Che dove vanno 60 gallerie? Vanno, è meraviglioso, comunque, vanno nelle mille stanze. Tutto. Sono gallerie da 150 metri di lunghezza e 18 metri di larghezza. Ok, cioè sono delle gallerie ci gigantesche. Un'autostrada. Ci passano anche carri armati, volendo, mi sa. 150 metri di lunghezza, hanno 18 metri di larghezza. C'è il garage. Allora, 40 dei suoi 64 saloni hanno una superficie di 600 metri quadri, quindi ci sono anche dei saloni giganteschi. Non male, non male. La sala dell'Unione invece misura 2200 metri quadri, che stanno stretti. Sì, stanno stretti. È fatto di marmo di Transilvania, che è lì accanto, giustamente. È marmo. Lì. vabbè, la maggior parte veniva alla riuscita. 3500 tonnellate di cristallo, 480 candelieri, 1409 luci e specchi, cioè c'è una roba enorme. 700.000 tonnellate di acciaio e bronzo, porte e finestre, delle porte e delle finestre monumentali, 900.000 metri cubi di legno per il parquet. Ah, no, giusto, tutti noi. E come si suol dire, e chissà che fatica a riscaldarla. Però, no, perché poi sono belli coperti da 200.000 metri cubi di tappeti di lana. Ah, vedi, okay, vedi, perché... tende di velluto, broccato, adornate di argento e oro, cioè è una roba. Sì, ma io me lo immaginavo una cosa molto più austera, come... E invece mi ha si tratta. Invece no, dentro no. Invece dentro no, ma fuori è abbastanza spoglia come... Da fuori sì, è un, da un certo punto di vista è un classico edificio socialista, quindi bello squadrato, bello imponente, che si vede da tutte le parti. Ora arriviamo alla storia. Al dunque. Esatto. L'ultime, un po' di ultimi dati, appunto vi dicevo, è il secondo maggior edificio amministrativo del mondo per superficie, dopo il Pentagono. Subito dopo il Pentagono, cioè Pentagono, una cosa gigantesca, ha un volume che supera del 2% quello della piramide di Cheope. Vabbè, giusto. Già a quel punto siamo a fare le cose in grande. Sono però fatti tutti con, cioè è tutto fatto con materiale rumeno, perché c'era appunto, diciamo, a un certo punto l'embargo da entrambi i lati, più o meno, perché sia, cioè, aveva rotto sia con l'URSS che con l'Occidente, anche se poi in realtà, cioè, con l'Occidente prende un grandissimo finanziamento che prosciugherà le, e è alla base della caduta economica della Romania, questo grandissimo prestito preso dagli Stati Uniti. Ha sputtanato tutto in palazzo? Ha sputtanato, sì, in candeliere. No, non serviva solo per il palazzo, serviva per tutto. Per tutto. Un po' come costruire la meraviglia Age of Empires 2. Sì, cioè lo fai, però poi è finito tutto. Esatto. Oh, però se poi lo tieni per 100 anni hai vinto. La cosa pesa è che nel mentre si costruiva questo, una delle due cose pese, nel mentre si costruiva questo immenso palazzo, la gente moriva di fame, o quasi, c'erano lunghe file ai mercati perché non c'era cibo sufficiente, ma tutte le risorse venivano usate appunto per le costruzioni, queste grandi costruzioni come il palazzo, e quindi la costruzione del palazzo stesso è uno poi dei motivi delle grandi proteste che poi partono in Romania, non dall'81, dopo un pochino, ma quando la gente comincia a stare veramente veramente veramente male. Ci sono gli scontri in piazza, insomma, sarebbe anche interessante ripercorrere tutti quei momenti da un certo punto di vista. Viene l'altra cosa pesa, è che viene completamente raso al suolo un intero quartiere con 30.000 edifici, borda, 19 chiese cristiane ortodosse, 6 sinagoghe e templi ebraici e 3 chiese protestanti, tra le varie, per fare spazio, vedrai, cioè metti, vengono dal giorno alla notte, arrivano bulldog, gli architetti, e fanno alla popolazione, qui si costruisce il palazzo, ciao. Fuori dalle palle, il vostro palazzo viene distrutto. Punto, quindi... è chiuso? E allora, non sono riuscito a trovare precisamente qual è il ricollocamento. Persone, chiaramente queste persone sono state ricollocate. No, vabbè, quello... immagino, nel senso, se no moriamo un milione di persone. La storia di oggi però appunto parte da questa premessa della costruzione del grande palazzo e della distruzione di 30.000 edifici, perché Eugenio Iordanescu, che era un architetto, era un ingegnere civile, scusate, sì, che partecipò appunto alla costruzione, si pose il dubbio di come fare per salvare soprattutto quelle grandi costruzioni che erano molto antiche, cioè si parla anche di strutture medievali, chiaramente sono principalmente chiese, però insomma, patrimonio culturale rumeno e non solo, anche alcuni edifici abitativi. Come si faceva a salvarli? Cioè, andavano spostati in qualche modo, va bene? Questo ingegnere civile inventò un sistema di trasporto che permise appunto di sollevare molti edifici e di portarli via proprio. Ma dai, no. Esattamente, ma senza smontarli. Senza smontarli, senza, utilizzando. Ma i Simpson a un certo punto se la caricano sul camion. Tipo. Sì, tutta Springfield, giusto. E, ora vado a raccontarvi come gli nasce questa idea. Comunque, fondamentalmente, riesce a costruire delle rotaie e un sistema per cui solleva dalle fondamenta questi palazzi, li adagia sopra una struttura e tramite queste rotaie portare via e spostare i palazzi. Allora, la storia ha raccontato lui, perché poi è diventato famoso, ha ricevuto anche delle onorificenze. Allora, un giorno praticamente mentre si trovava nell'area, sarebbe stata demolita, chiaramente lui era all'interno della costruzione di tutto quello che c'era da fare, vide una bellissima chiesa e cominciò a chiedersi come faccio a evitare che venga distrutta. Lui inizia a discutere con i suoi colleghi e dicono: beh, sei pazzo, cosa stai dicendo? Non è che li possiamo spostare così come sono. Gli venne un'idea quando era al ristorante. Vide un cameriere che con un vassoio in mano riusciva a portare dei bicchieri, no? Mantenendo in equilibrio senza fare cadere il liquido, come succede in tutti i ristoranti. Beh, o bar. Grande, però, illuminazione. Grande, insomma. Illuminazione, perché si rese conto che il vassoio poteva essere la soluzione a tutti i suoi problemi. Quindi riuscì praticamente a tagliare le fondamenta sotto ed inserire un vassoio. Un vassoio che veniva poi rialzato, si inseriva direttamente sotto le rotaie. Sì. Il resto le avevano costruite precedentemente, tra l'altro precisissime, perché dovevi spostare un palazzo, certo, tra vari palazzi, perché non è che erano stati distrutti, quindi doveva essere perfetto al millimetro. E quindi, utilizzando questo vassoio appunto e queste rotaie, riuscì a spostare delle leve idrauliche, pulegge alzavano questo vassoio e sulle rotaie riuscì a spostare un sacco di strutture. Il primo edificio che spostò fu la chiesa del XVIII secolo, la Shitul Maichilor. Pesava 745 tonnellate, okay, e fu collocata a 245 metri dalla sua posizione originaria. Boh, è anche un bel viaggetto. Un bel viaggetto. Quanto, scusa? 245 metri. Sono più di 2,5 km di spostamento. Una chiesa intera. Ma non esistono delle foto. Sì, sì, mila è chilometri. Ci sono metri, 245 metri. Poi, ragazzi, sono 200 metri piani. Li fai con 700 tonnellate. Non so, mia figlia. Di corsa li fai in 19 secondi. Vabbè, una volta, e se sei una chiesa? E se sei una chiesa? Arriva il fenomeno. Ragazzi, è tanto. Non sono 2000 chilometri. No, che 2000 chilometri? Per dire. Scusate, no, spostarla intera, pensavo, sai, 50 metri è un conto, 200. Sì, no, scoccia. Esatto, però scusate, non finisce qui, perché certo, poi ne sposta un'altra del XVI secolo che pesava 9.000 tonnellate. Giure. Perché c'era anche la torre con il campanile. Ma ti immagini? E quello però lo trasla di 24 metri. Insomma, bene tutto, ma purtroppo sposta anche una banca. Però sposta anche un ospedale, alcuni condomini. A volte questi condomini, no, questo è incredibile, io non sono riuscito a capire bene come abbia fatto. Ha spostato i condomini con la gente dentro. Con la gente dentro, allacciato all'acqua e al gas. Beh, vabbè, assurdo. Se quindi stavano a guardarsi loro, stavano tranquilli in casa, sul divano, e avanti. Intanto la casa si spostava. Avanti. No, pazzesco. Questi edifici, c'è anche un documentario che vari articoli, dove alla tua risposta, Grande Drago, ci sono dei filmati addirittura, non solo delle foto. Questi edifici, anche queste chiese, oggi sono in realtà poi mangiati dalla metropoli. Quindi queste chiese, tipo la chiesa del XVI secolo, che poi è stata ricollocata, ora è praticamente invisibile perché ha tutte palazzine intorno. Però intanto sono state salvate, non distrutte, per la costruzione di questa immensa non voglio dire mostruosità, però insomma, per questo palazzo, insomma, era palazzo. E appunto, vi dicevo, nell'89 finisce la costruzione, però cade anche il regime comunista di Ceausescu. E niente, oggi il loro ingegnere civile ha 87 anni, ha smesso di lavorare, però ha trasmesso a suo figlio questa passione di spostare case. Sì, di spostare case. Cosa fai di lavoro? Io sposto case. Sposto edifici sui binari. Chiese. Il figlio Adrian, che anche lui ingegnere, che ha fatto lavori simili al padre, sia modernizzare la tecnica, però ha anche spostato l'Arco di Trionfo di Bucarest, il figlio. Il figlio ha spostato l'Arco di Trionfo. Non famiglia, so per quale motivo, non sono riuscito a trovarlo. Una famiglia di spostatori seriali. Di spostatori, spingitori di cavalieri. Ma volevo fare lo spostatore. Ebbene, questa è la storia fantastica che arriva dai Balcani di oggi. Spero vi abbia sollazzato. Incredibile. Veramente incredibile, da non crederci. Pazzesco, pazzesco. Vi lascio con un pezzo legato alla mia rubrica, dal titolo Rasputin. Con un video pazzesco. Con un video pazzesco in cui ci sono questi scienziati russi dell'URSS che cercano di costruire queste scarpe meccaniche che ti fanno ballare al meglio, sì, a livelli incredibili, sì. All'inizio costruiscono un robot, ma il robot viene distrutto, poi costruiscono un super uomo e anche lui non ce la fa, e poi arriva il salvatore, e qui mi fermo, andate a vedere chi è che salva. Un po' di sorpresa nella vita. Sì, scienziati. E quindi Rasputin, Wombat. I'm gonna make you mine. Rassegna eventi. Dai, e ce l'abbiamo fatta. Ancora no. C'è il momento più difficile della settimana. La responsabilità. Leggere la rassegna eventi è difficilissimo. Questa musica mi sta mettendo pressione. Allora, Those Russian. Sentiamoci. Dai, dai, allora, vai, sparte, sparte, sparte direttamente da giovedì. Niente. Giovedì. Avete qualcosa da consigliarci per prima? Allora, fammi pensare. Niente, non lo trovo. Fate voi. Dai, si può fare blande cena in tema di blande del lago. Tutti insieme. Va bene. Bene, sono invitati tutti i buon battari. Esatto. Dai, partiamo dal lunedì. Allora, raccontateci cosa succede. Io giovedì. Non posso, quindi sarò un additore. Bene, allora, dalle 18.30 in polveriera ci sarà il laboratorio teatrale, come tutti i giovedì, yes, direi. Sì. Bene. Penso che questa sia il primo appuntamento dopo la pausa. Dopo la pausa, esatto. Quindi riprende. Invernale. Bene. La sera, al Next Emerson, c'è stata una serata organizzata dal collettivo Nuovi Rumori, che dalle 22.30... vedrà sul palco Uragano, Legni Vecchi e Naresh Ran. Naresh Ran. E in più ci sarà quello che ci dicevano prima i ragazzi, la crepa, la cena. Ci sarà la crepa, la cena, la crepa, sì. Quindi, con probabile proiezione, suppongo. Probabile. Buono. E questo è giovedì. E questo è per giovedì. Bene, il giorno si è passa giovedì? L'11. L'11. Benissimo. Il 12 invece. Ci sono diverse cose. Dalle 12 alle 16, come ci suggeriva il nostro amico Bricco. Allora, no, era? Dalle 12, dalle 16. Dalle 16, dalle no, 16, un cazzo. Sì. Venerdì 12, dalle venerdì 16. 12 alle 16. Casino, puttana, ottimo lavoro, ragazzi. Bravo. Venerdì 12 alle 16 ci sarà in Via dei Pepi un appunto un presidio di protesta e controinformazione. In angolo tra Via dei Pepi e Via Pietrapiana, un presidio a cura, si può dire a cura, Mattillo, organizzato del comitato da inquilini del quadrilatero. Sono praticamente il comitato degli inquilini di Via dei Pepi, dove che stanno affrontando appunto una questione, la spinosa questione degli sfratti dalle case popolari del centro, per tutte le questioni, insomma, tutti i fatti già citati. Hanno fatto un comunicato, si intitola La morra cinese, e se volete, se avete pazienza, vogliamo. Vai. Vado a leggere. È che un dice va. Te. Allora, quest'anno a Natale il sindaco Nardella, invece di giocare la tradizionale tombola, ha preferito giocare alla morra cinese con la direttrice del fondo immobiliare Invimit, Elisabetta Spitz. Ha giocato con le nostre case, mettendo sul piatto le pietre secolari di 61 immobili da sempre utilizzate come case popolari. Lo ha fatto sapendo di perdere, sapendo che Invimit avrebbe risposto con un mucchio di carte, sapendo che in questo gioco la carta vince sulle pietre. In questa schifosa operazione hanno avuto l'appoggio di quasi tutto il Consiglio Comunale, che dal PD a Forza Italia, passando per MDP e 5 Stelle, con la sola eccezione di 4 consiglieri, Grasso, Amato, Trombi e Verdi, ha votato compatto alla delibera con la quale si dà il via libera alla svendita. Cosa darà Invimit in cambio dei 61 alloggi? Cosa darà? Solo 4 milioni di euro. solo 4 milioni di euro. Si parla di 61 edifici, quindi viene più o meno 60.000 euro per appartamento. Per il resto si dovrà attendere 20 anni e sperare che la performance del fondo siano buone per avere il resto dei 9 milioni di euro di stima degli immobili, cioè, quindi praticamente un terzo. Pensa te. Un terzo viene dato e i due terzi chi lo sa. Lo stesso Invimit nella brochure di presentazione del fondo precisa che alla scadenza dei 20 anni non garantisce la restituzione del capitale conferito, perché è un fondo a rischio e, essendo oltretutto un fondo chiuso, non è possibile la liquidazione prima dei 20 anni di durata del fondo. Per far decidere l'operazione hanno detto un mucchio di falsità. Hanno detto che si tratta di appartamenti vuoti e fatiscenti, mentre la maggior parte di questi appartamenti sono stati sempre abitati da famiglie e ora sono vuoti solo perché il comune ha imposto il trasferimento forzato degli inquilini in altri alloggi, sottraendoli e sfrattandoli, lasciandoli senza casa. Hanno detto che non li hanno messi all'asta, procedura che avrebbe garantito un guadagno maggiore e immediato, perché le precedenti aste sono andate deserte, ma nessuno degli appartamenti precedentemente abitati è mai stato messo all'asta. Un attimino. Oltre a queste bugie, molte sono le incongruenze di questa vendita, dalla sospensiva del TAR al vincolo di destinazione dei proventi degli appartamenti di Via del Romito, del quale non è stato tenuto conto, dal prezzo di vendita degli appartamenti di Via Beata Umiliana, sui quali pendeva un obbligo di cessione a non meno di 2 milioni e mezzo di euro e poi barattati per appena 900.000 euro, alla vendita diretta agli inquilini che hanno il diritto di prelazione per 5 appartamenti che avrebbero potuto portare direttamente nelle casse di Palazzo Vecchio il ricavato delle vendite. Anche questa vendita viene fatta a Invimit, ripugnando a UFO le casse del fondo. Rimpinguando a UFO le casse del fondo. A questi signori, che continuano a sostenere la bontà dell'investimento, bisognerebbe chiedere di svendere la casa loro a queste condizioni. Si sono affrettati a fare il rogito notarile lo stesso giorno di approvazione della delibera, pensando in questo modo di chiudere definitivamente la partita. Si sbagliano di grosso. La lotta per impedire la vendita di queste case continuerà a livello legale, perché su tutte le incongruenze dell'operazione saranno messe in atto azioni legali, ma continuerà principalmente con la mobilitazione dei cittadini, degli abitanti del centro storico, ai senza casa e agli sfrattati, perché il patrimonio pubblico non può essere venduto. Quindi, venerdì 12 gennaio, a partire dalle ore 16, presidio di protesta. Via dei Pepi, angolo via Pietrapiana. Questo è quanto. Direi che abbastanza è una cosa interessante, potrebbe essere quello di andare a raccogliere qualche informazione in più. Assolutamente, cosa che faremo, fare questo grande annuncio. Sì, faremo no, perché senso... non solo con il sit-in, ma il comitato, dei rappresentanti del comitato saranno addirittura presenti in diretta nella prossima puntata. Di fuoco alle polveri, gli applausi. È così. Quindi non mancate, settimana prossima parliamo un po' più approfonditamente di tutta questa questione della svendita delle case popolari e che dal centro di Firenze vogliono togliere per sempre. Mi guardi con quella di fatto sono le ultime 61 case popolari rimaste nel centro, perché le altre sono già state vendute, quindi insomma bisogna cercare di tenercele strette. Certo. Detto questo, proseguiamo con la rassegna. Devo stare immobile, forse sono io, sai. Siete pensavo fosse io. Okay. Io vado avanti. Andiamo in Viale Corsica. Viale Corsica, ci sarà una cena dalle ore 20:30, cena gourmet con specialità culinarie, benefit inguagliati con la legge a prezzo popolare. Cioè non sono inguagliata con la legge, anzi non penso che siano inguagliate a prezzo popolare, non ma non credo per niente. La cena sarà a prezzo popolare. E magari scrivete sulla pagina, seguite un po' l'evento su Facebook, che c'è le prenotazioni per seguire il menù, insomma guardate un po' lì. Dalle 22 viene dopo, esatto. Certo, perché c'è il karaoke. C'è il karaoke. Che è sempre divertentissimo, effettivamente. Se volete venire a sentirmi cantare Montagne Verdi, sarà un momento epico. Al Next Emerson, invece, no, che non si ferma mai. Concerti che saranno penso, Randy Savage. Sì. E The Bermudas. Ok? Quindi punk rock e glam punk. Queste sono le indicazioni che abbiamo. Andate a sentirli. Tanto parte sempre, non so bene a che ora partirà, ma non 10 penso. 10:30, 11:00. Sì, 10:30, 11:00. E niente, quindi viva l'Emerson sempre. Viva l'Emerson sempre, sì, sì. Passiamo al sabato, che è il 13. E partiamo con il pomeriggio. Il pomeriggio ci sarà una un'iniziativa in Piazza dei Ciompi per ricordare, organizzata dall'Associazione Amicizia Italo-Palestinese, per ricordare l'operazione Piombo Fuso del 2008-2009. L'operazione Piombo Fuso, ricordiamo che fu un'operazione militare portata avanti da Israele sulla striscia di Gaza, in cui morirono diverse migliaia di persone e tra l'altro vennero usate anche armi non convenzionali. Ora, non convenzionali effettivamente è una cosa che possiamo dire da qua, da Israele no, perché Israele non ha firmato il trattato sulle armi convenzionali e non convenzionali, quindi per loro sono tutte convenzionali, e hanno usato il fosforo bianco che semplicemente crea delle ustioni sulla... Si brucia vivi, e l'hanno usata anche sugli ospedali, sulle scuole, quindi questo è quello che hanno fatto e che hanno fatto ripetutamente, non soltanto nel 2008, l'avevano fatto prima e l'hanno fatto dopo, e per fortuna c'è chi ha in passato raccontato e continua a raccontare alcuni... quello che succede in quel territorio, perché non è nemmeno semplicissimo avere informazioni e per esempio appunto su Piombo Fuso ci sono stati durante l'operazione i racconti di Vittorio Arrigoni, che sul suo blog era l'unico nel mondo, comunque perché veniva ripreso, sì, che era lì dall'inizio, e che sul suo blog raccontava appunto gli avvenimenti di quell'invasione, di quella guerra, di quell'attacco, e tra l'altro il suo blog divenne in quei giorni era il più letto, il sito internet più letto in Italia, perché talmente era appunto l'unica fonte di informazione, certo, diretta c'era da lì. Quindi ci sarà questa iniziativa per parlare, raccontare e ricordare quello che è successo in Piazza dei Ciompi dalle 15 alle 17 di sabato 13. Ricordiamolo che il reportage di Arrigoni sull'operazione Piombo Fuso furono raccolti poi nel suo libro intitolato Gaza, restiamo umani. Detto questo, passiamo alle cose un po' più piacevoli e tranquille e leggere. Sì, signore. Allora, sabato 13 all'occupazione di Via del Leone, te lo sì. Mano. Ah, l'hai trovato? L'ho trovato. Allora, vai avanti, finisci, vai. No. No, va bene. Ci sarà un aperitivo e i ragazzi scrivono festeggiamo il nuovo anno con le nuove generazioni della musica libera fiorentina. DJs, MCs. Cantanti e suonatori controllano in logica di mercato. Questa è la nostra Firenze. E dai, ragazzi di Via del Leone che festeggiano il nuovo anno appunto... Con un po' di musica. Sempre sabato in polveriera Roda de Janeiro con festa e il gruppo di Capoeira, esatto. Io ragazzi c'ho il microfono rotto, mi dispiace, e il gruppo di Capoeira che da tanto tempo si riunisce in polveriera per fare la sua lezione e la sua roda. Nulla, sabato 13 fa una giornata intera dalle 10:30 del mattino, questa una lezione, poi la roda dalle 14 in poi fino alla sera, e la sera poi ci saranno i Fuoco Lento Roots Club a deliziare con i presenti, sì. Con reggae, sì, a occhio e croce. Esatto, chiedono giustamente se siete intenzionati, e fatelo, di andare all'allenamento, comunicarlo magari in modo da... È quello della mattina, mi sa. Della mattina, sì, per organizzarsi un po'. Organizzarsi, sì. Al meglio. E offrono anche, a quanto pare, posti per dormire, quindi se avete voglia di venire ma non sapete dove dormire, chiamateli, contattateli. no? E via, certo, e via. Certo, certo. Ebbene, giungiamo a domenica 14. Giungiamo a domenica 14. Eh? Mi confermate? Sì. In Polveriera ci sarà una lunga, dal pomeriggio direi fino alla sera, dopo cena, Emerson Setter Sound System con i Meruz Sound System e Disco Rebel Foundation, e ci sarà una giornata di black music su vinile. Quindi questa è la seconda appuntamento dei Sunday Vinyl Session che organizzano i Meruz con Disco Rebel Foundation. È vero. Non è il terzo? No, quello scorso non era di domenica, okay. Era di sabato, quindi non era il Sunday Vinyl. E stavolta con questo è Sunday. Gli Emerson Setter Sound System, con la Soul Division, che conosciamo bene perché ascoltiamo spesso sui microfoni di Radio Wombat. È vero. I due DJ che ci allieteranno con Soul e Northern Soul. Figata. Sì. E quindi durante tutta la giornata, appunto, in Polveriera, loro giustamente invitano al ripiglino pomeridiano della domenica, nel senso che pomeriggio tranquillone. È il pomeriggio tranquillone, dalle 18 fino alle 22:30 ci sarà anche una pericena, ovviamente sempre a prezzi popolari, l'ingresso ovviamente sempre gratuito. E via. Beh, Wombat direi. Wombat assolutamente. Tra l'altro, andate sul... ci siete già, perché ci state ascoltando, sul sito di Radio Wombat. Se mi muovete tra le sezioni, andate a Palinsesto. Il Palinsesto è aggiornato. Ci sono le nuove trasmissioni. Verrà riaggiornato probabilmente tra un paio di settimane. Però ci sono le novità. C'è lo spostamento di orari di alcune trasmissioni, quindi andate a vedere e... su cose nuove trasmissioni, sì, appunto in sì, arrivo sì. E via, evviva, dai, anche per oggi abbiamo praticamente finito. Esatto, 18:34 qui su Radio Wombat, e direi che possiamo salutarci, ragazzi. Ma allora, io sono arrivato tardi, dai. Quindi devo facile, però ma sì, direi di sì, non mi pare che ci stiamo perdendo qualcosa per la strada, non mi ricordo. E quindi direi che ci possiamo salutare. Ci sentiamo lunedì prossimo 16:30, Radio Wombat. Dai, fuoco alle polveri. Sempre fuoco alle polveri. Wombat, Wombat, Wombat. Fuoco alle polveri. Go help Paul Berry. Radio Wombat.